Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Realizzata per la prima volta in Italia una plastica della valvola mitrale totalmente per via endoscopica grazie all'utilizzo di una tecnologia tridimensionale ad alta definizione. L'intervento è stato eseguito con successo dall'equipe del dottor Marco Diena, responsabile della cardiochirurgia mini-invasiva ed endoscopica del Policlinico San Donato di Milano, che è in linea con noi. Buongiorno dottor Diena, complimenti. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Ci racconta questo intervento? Sì, grazie. Questo è un intervento che corona tanti anni di successo su una chirurgia mini-invasiva, che è la chirurgia che rende l'intervento al cuore un intervento più leggero. Noi abbiamo iniziato già più di 20 anni fa la chirurgia endoscopica, la cardiochirurgia endoscopica, col primo bypass fatto con l'aiuto dell'endoscopio e poi con il robot da Vinci. Quello della settimana scorsa è stato in effetti il primo intervento interamente endoscopico fatto con una tecnologia 3D avanzatissima, perché noi siamo con questa tecnologia in grado di entrare con l'occhio dentro il cuore dei pazienti senza aprire, divaricare il torace, solo con due piccole fori e una piccola incisione per far entrare gli strumenti endoscopici e l'endoscopio 3D. Dottor Diena, l'insufficienza della valvola mitrale è una delle malattie cardiache più frequenti e anche tra le prime cause di ricorso alla cardiochirurgia nei pazienti in età lavorativa tra i 40 e i 60 anni. Quali sono i sintomi di questa malattia? Certo, bella. Effettivamente, come dice lei, la insufficienza mitralica è la patologia più frequente che richiede la maggior parte dell'intervento per questa fascia di età, tra i 40 e i 60 anni. I primi sintomi non vanno sottovalutati, perché possono essere il cardiopalmo, cioè il batticuore sostenuto, o la mancanza di fiato quando si fanno gli sforzi, che si chiama dispnea. È importante che ognuno di noi testi la propria capacità di tolleranza allo sforzo salendo le scale, anziché prendere l'ascensore, perché soltanto facendo uno sforzo che ci rendiamo conto in modo precoce se qualcosa non funziona del nostro cuore. Quindi dobbiamo essere noi, prima del nostro medico, attivi nell'attenzione alla nostra salute. Questo è un concetto più ampio, un concetto olistico, però vale assolutamente per il cuore. Homo faber, fortune sue. Assolutamente. Dottor Diena, grazie e complimenti, le auguro una buona giornata. Grazie a voi e saluti a tutti. Bene, per oggi è tutto. Come sempre vi do appuntamento a domani, dopo il GR delle 6, per iniziare insieme la giornata. E come sempre vi invito sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute con le nostre video interviste. Ogni giorno incontriamo un ospite, un esperto che ci aiuta ad affrontare la nostra nuova quotidianità. Oggi parliamo del potere della gratitudine. Vi aspetto, non mancate. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.